Però vorrei chiedere a Damiano Tommasi, che tutti ricordano è stato il appassionato sportivo, è anche un grande giocatore che ha fatto sempre dell'esempio di correttezza e sportività, uno dei suoi punti di forza, oltre che le capacità calcistiche. Senta Tommasi, qui la questione è che vedendo 30 anni fa, poi Calciopoli qualche anno fa, adesso questo calcio scommesse, vedremo. Insomma, l'idea, la sensazione è che periodicamente, come dire, non finiscano mai queste cose. Ecco, lei da calciatore, c'è mai avuto la sensazione anche che qualche partita, non so, di fine stagione fosse, diciamo, combinato, comunque ci fosse poco impegno, scarso impegno in campo da parte dei giocatori? Ma qua c'è un problema che è diverso, nel senso che non è solo sportivo il problema, anzi, col volume da fare che muovono le scommesse e le scommesse online ancora di più. Qua non si sta più parlando di una partita che ha un valore sportivo e quindi per la classifica, ci può stare che due squadre si trovino a giocare una partita dove il pareggio va bene a tutte e due, quindi è difficile poi competere per la vittoria o che sia una gara diversa da quella che vediamo spesso quando il pareggio va bene a tutte e due le squadre, a tutte e due le tifoserie per la classifica. Qua il problema è che il pareggio non è più solo per la classifica, è per qualcos'altro. Insomma, troppi soldi, insomma, troppi chi soldi. Chi mi ha preceduto parlava del vino paragonato alle scommesse. È vero, concordo in tutto quello che è stato detto, ma è anche vero che il vino per chi guida non va preso, perché può diventare pericoloso. Allora io mi domando se scommettere su un evento dove la volontà dell'uomo può incidere sul risultato, e come ho detto prima, insomma, questo evento poi muove milioni di euro, quanto dobbiamo lavorare sull'etica dei comportamenti per arrivare ad una coscienza che riesca a respingere. Certo, perché se laddove chi scommette è per esempio un giocatore, uno che poi va in campo e può decidere la partita, certo che il problema c'è.